Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Si arriva sempre a questo punto, ci si guarda e si ride, eh? Sì, perché i sonini devono finire giustamente. Certo, se no che Music Concrete, esatto, sarebbe, no? Esatto, di Pierre Henry nel suo progetto Lazy Pear Sound. La sigla di Basement Records anche per questo sabato sera con voi, sempre sulle frequenze di Radio Wombat. Un benvenuto alla Virgi. Grazie, grazie mille. Sono sempre contenta di entrare dopo questa bellissima sigla. Devo dire che non voglio offendere nessuno, veramente. Nessun altro programma, tra cui anche il mio, altro. Scusa, Bloody Mary, però questa sigla qui mi spiace, ma è difficile da battere. E da abbattere, perché continua. Il vecchio Dama a portarsi il suo dischino con la sigla, molto bene. Sì, sì, ormai è quasi consunto, ma sta resistendo. Va bene, perché è proprio in tradizione Music Concrete, finché non finisce, finché non si consuma tutto il vinile. Si va avanti. Poi comunque, appunto, più si consuma e più verranno fuori altri suoni, più altri, no? Sonini, l'apoteosi, un 45 in continua evoluzione. Benissimo. Bene, quindi work in progress della distruzione del vinile. No, babbo, non te lo distruggo, tranquillo. No, infatti, non si preoccupi. Lo giuro. L'ha giurato, lo sta giurando. E invece noi ci ritroviamo dopo un po', perché per un po' di così di problemi tecnici abbiamo saltato qualche settimana. Sabotaggi vari, esatto, scoprivateli. E torniamo oggi con un'altra selecta dalla cantina. Proprio a proposito di questo, volevo approfittare per invitare i nostri ascoltatori a rinnovare l'appello. Salvate Basement Record, perché a forza, cioè, la collezione del babbo è, insomma, è estesa ma non è infinita, per cui a un certo punto anche la nostra cantina finirà. E se volete che, come dice Guzzanti, venite a Radio Wombat a raccontare le vostre storie e quindi viniliche, qualcuno di voi piano piano dovrà cominciare a collarsi, di portarci un po' di viniletti vari, e anche, perché no, sì, venire ospite e raccontarci così la storia dei suoi dischini, non solo gli addetti al lavoro, cioè gli altri DJ di Radio Wombat, che già in parte a volte hanno contribuito, ma in generale proprio a chi ascolta questa trasmissione è più che invitato a venire nella sala del Wombat, a scriverci magari prima o così, e a partecipare. Bene, raccontateci la vostra storia in vinile. Collezione è un libro di storie che raccontano di voi. Esatto, com'è ispirato oggi? Veramente stasera ci sei cavi nuovi, è partito bene. Bene, a proposito di cavi e di strumentaggio vario, direi che si può aprire subito, così si a apre, bomba. Si apre subito? Ah, con il primo con di il stasera primo, il primo vinile di stasera, che è di un grandissimo sì. Grandissima collezione, anche collezione, stasera dei vinili, anche se la Virgi dice che sta raschiando il fondo del barile, in realtà se questo fosse davvero il fondo del barile, tanta roba, perché anche oggi tutti pezzi da selecta, 90, direi. Sì. No, non è che sto riscaldando il fondo del barile, è che sto prendendo piano piano quello che rimane, solo che piano piano si stanno sentendo tutti. Vabbè. E quindi, ringrazio come al solito il babbo Gianca, che grazie a lui stiamo andando avanti la trasmissione. Grazie Gianca. Bene, te li riporto intatti, te lo giuro. Mi guarda sempre male quando esco di casa con i dischini sotto il braccio, perché insomma. Questo è invece una perla di Ray Cooder, il grande, appunto, grandissimo Ray Cooder, disco del 1987, è pubblicato dalla Warner Bros. Record ed è Get Rhythm. Prende infatti il titolo, credo, dalla prima traccia del lato A, che in realtà è un pezzo di Johnny Cash, del grande Johnny. E quindi abbiamo fatto così una combo, unito questi due grandissimi artisti, un mito che suona un altro mito, esatto, della musica. E questo album è, diciamo, segue il precedente dell'82, che era Slide Area, e sarà seguito poi nel 91 da Little Village, che è l'album successivo. È un album in studio, appunto, pubblicato da Ray Cooder, come dicevo, nell'87, e contiene numerose tracce, tra cui numerose cover. Sì, diverse cover, devo dire. Diverse cover, perché c'è anche un'altra di Chuck Berry, Question Method, esatto, che è la traccia 4. Poi c'è un Raymond che vedo. Sì, vedo. Esatto, insomma ci sono tantissime. Vedo anche un Elvis the Pelvis in Memphis. Ah sì è vero, c'è All Shook Up, che è la prima del lato B. Quindi davvero, può darsi che da questo non la sentirete. No, cioè, oggi non la sentirete, però siccome insomma c'è diverse perle, può darsi che ve le riproporremo nel tempo. Per ora abbiamo scelto per partire Get Rhythm, che appunto è la traccia che dà il nome all'album e che è la cover di un pezzo di Johnny Cash. E sentiamocela subito questa Get Rhythm di Johnny Cash, sempre qua a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. Questa era Get Rhythm di Johnny Cash, rifatta sì. da Ry Cooder e la sua band. Una versione diversa, effettivamente, dai. Decisamente diversa sì, dalla versione di Cash. Giustamente anche, giustamente. Rifà uguali. Sono molto anni 80 sì, per questo Ry Cooder. Un po' Irish, ma lui sì, è sì, sempre no. un po'... così antropologo musicale, quindi gli piacciono, gli piace ce l'avevo sempre più presente per la sua fase precedente, cioè proprio di bluesone classico. Sì, però in realtà lui degli anni 60 sì, certo. o per il finale di carriera con appunto Buena Vista Social Club. Esatto, vabbè, ora ha fatto più recentemente cose. Sì, no, sì per... lui è diciamo che vabbè, no, vabbè, noto ovviamente per aver esplorato in realtà vari generi della musica americana, quella che si chiama delle radici, no? Roots music. Ecco, in generale, proprio lui è sempre stato un ricercatore etnomusicale, no? Si assolutamente, dice, cioè, proprio un, sì. un ricercatore di tutti i vari... Una grande ricerca non a caso sotto poi, la sua musica. Non è un caso che sia arrivato poi a, appunto, insomma, in età più che avanzata, però fino a Cuba, fino a Buena Vista Social Club, proprio perché... aveva sempre avuto questa curiosità così intellettuale, musicale, da raga indiano fino ai ritmi sudamericani, passando per la musica africana. E beh, è stato poi comunque sempre considerato addirittura nella lista dei migliori chitarristi del mondo. Ah, sì, sì, quello. In realtà sa suonare tantissimi strumenti a corda, tra cui anche il mandolino, il bouzouki, la chitarra western, insomma è comunque un polistrumentista, in particolare appunto specializzato in strumenti a corda. E in realtà appunto... ha sempre così è sempre stato un ha sempre padroneggiato la tecnica dello slide, no? E sì, qui leggevo anche blues, sì anche molto questa bottleneck, no? Con la chitarra acustica questa tecnica, appunto, questo uso singolare del collo di bottiglia sarebbe. Sì, cioè, proprio la tradizione del country blues, esatto. Quella, il classico modo di suonare la chitarra del delta dei bluesmen del delta del Mississippi. Sì, proprio il blues delle origini, non sì, a caso. Sì. Poi chiaramente reinterpretato. Cioè, Thompson House, tutto il resto della banda dei pionieri del country blues, pionieri solo perché sono stati i primi a essere registrati, esatto, negli anni 20, poi chissà quanto ce ne sarà stati e poi, prima, no, ma loro erano proprio quelli che poi l'hanno rubato a loro, sì, no, vabbè, cioè, come praticamente come non smetterò mai di ripetere, come praticamente tutta la musica del Novecento, certo, i bianchi l'hanno rubata praticamente tutta. Dai neri. Beh, sì, diciamo sicuramente quella che noi consideriamo appunto la cultura poi blues e rock, insomma, fino al pop, jazz, direi, il jazz, sicuramente nasce, appunto, sappiamo bene dove sono le sue radici. L'elettronica stessa, esatto, sappiamo dove più sono popolare, le due radici, che è assolutamente nera. Diciamo che spesso poi i nomi che portano questi generi musicali alla ribalta sono nomi bianchi, sono nomi. Che erano, no, quelli spesso accettati dal grande, esatto, pubblico, in realtà, appunto, e dietro, dalle case discografiche soprattutto. Prima e dietro c'è molta storia che fortunatamente, devo dire, negli ultimi decenni viene riscoperta e viene considerata. Ecco, diciamo che così la tecnica di recorder era improntata all'uso di varie accordature aperte e da uno stile molto raffinato che tra l'altro lui porterà anche in altri campi, come nella produzione di colonne musiche, per esempio del film Parigi, Texas di Wim Wenders, è una delle più note, nonché appunto lui è l'iniziatore nel 96 del progetto Buena Vista Social Club, proprio la regia del documentario tra l'altro era di Wenders, e il figlio di Ray Hooder, Joachim, è con lui nel documentario e ha suonato spesso con i vari le varie ensemble del Buena Vista Social Club. Tra l'altro leggevo che nel 2011 Coder ha pubblicato per la storica casa editrice americana la City Lights la raccolta di racconti Los Angeles Stories, che è la sua prima opera narrativa pubblicata in Italia nel 2012 da Elliot, quindi anche scrittore in tarda età, come molti in realtà musicisti, così poi approdano anche alla scrittura. In questo album in particolare lui si avvale di tantissimi musicisti, Session Man, alcuni dei quali molto, molto, molto noti, molto famosi, tipo il primo nome che vedo qua nel retro di copertina alle tastiere, niente proprio di meno che Van Dyke Parks, esatto, che magari alla maggioranza non vi dirà un granché, ma è stato un grandissimo della, a parte essere un grandissimo session man che ha collaborato con alla registrazione di tantissimi album famosi, ma poi ha avuto anche una discreta, anche se come tanti diciamo genialoidi non mai abbastanza riconosciuta, carriera artistica con diverse chicche, insomma, diverse collaborazioni note, sì, no. E anche Steve Douglas al sassofono, Flaco Jimenez all'accordion, esatto, Jim Keltner alla batteria, al basso. Insomma, noti session man per questo album che porta appunto dei pezzi originali e diverse cover, come dicevamo, reinterpretate. Abbiamo un altro ascolto, questa volta è un pezzo sì, di sì. Ray Hooder, e sì, la traccia numero 3 del lato A, che è Going Back to Okinawa. E ce la sentiamo subito, sempre qua su Basement Records a Radio Wombat. Stay at home in California. There's nothing over there that you can do. Going back on the Okinawa ain't gonna do me like you done before. Treat me like a king down in Okinawa. I ain't ever coming back no more. Sì, che lo riconosco. Ariecco, sì, beh, questa era più bluesettona, vecchia, vecchia scuola. Sì, bene. E così anche Ray Hooder, che tornerà sicuramente così nella programmazione di Basement Record. E intanto ce lo siamo sentiti, sì, speriamo. Appunto. Sì, ora, no, perché se non ci rompono il disco, ce la possiamo fare. Però proseguiamo invece con qualcosa di completamente diverso, e così in realtà non è una new entry, l'abbiamo già sentiti dei pezzi da questo vinile, l'avevo già portato, sono i Ramones con, mi ricordo il titolo del vinile, Howling at the Moon. Sì, Howling at the Moon è il pezzo che metteremo. Volevo sapere il titolo, detto, che non me lo ricordo più, dell'album. Too Tough to Die, esatto. Sì, l'ho riportato perché appunto, così, vabbè, mi piace molto, ma in realtà volevo fare una dedica a un nostro ascoltatore assiduo, Federico, ciao, e così gli volevo dedicare questo pezzo, lui lo sa perché è un pezzo dei Ramones. E quindi insomma è proprio una dedica, così, una richiesta, no, insomma più che una richiesta, una dedica dovuta. E intanto darei il pezzo e vabbè, e i Ramones non hanno bisogno di troppe presentazioni. No, già li abbiamo anche già presentati la volta precedente, e ascoltiamoci questi Ramones. Sì. Thank you. bello della diretta. Bello del vinile. Vabbè, insomma, questa era un pezzo dedicato, appunto, ed era tratto da Too Tough to Die, che, come abbiamo già accennato, è l'ottavo album in studio del gruppo, appunto, del celeberrimo gruppo punk Ramones, uscito nell'84, ed è tra l'altro, così forse non tutti sanno che, è stato il primo album registrato con Richie Ramones, cioè il primo dove suona, compare Richie Ramones. Direi che ci sono anche ci sono presenti anche due canzoni cantate interamente da Didi Ramones, sono Warthog e Endless Vacation. Noi ne abbiamo già sentite alcune tracce da questo album, oggi abbiamo sentito un'ennesima, ma di sicuro ci ricapiterà tra le mani. Mi ricordo male, avevamo ascoltato Mama's Boy e Too Tough to Die, esatto, l'omonimo dell'album. Questa invece Howling at the Moon e sottotitolo Shalala, e un altro pezzo appunto celiberrimo che, come dicevo, non necessita di troppa introduzione. Per cui, dopo questo intervallo così punk dei Ramones, proseguiamo invece con qualcosa di completamente diverso, davvero, ed è... Sì, per staccare, dai. Per staccare è un pezzo di un duo che a volte è stato un trio, poi è stato un gruppo, poi, in questo caso è un duo. La formazione più nota è a quattro. La formazione più nota è a quattro, quindi penso che avrete già indovinato. Glielo vuole dire lei, guardi. E in questo caso sono solamente Crosby e Nash. Anzi, no, sì, sono solamente sì, questa Crosby volta e Nash. Solo con un album live, senza Stills e senza Young. Esatto, è un album registrato live. Quattro colossi, qui ne abbiamo la metà, ma sono sempre due colossi della musica americana. Ce la possono fare anche in due. Sicuramente. Si chiama appunto Crosby Nash Live, così, e in copertina ha appunto una foto probabilmente del di quello che era il pubblico live della registrazione. Con gli accendini, vedo. Esatto, tutta questa gente, sì. Ed è un album uscito nell'ottobre del 77, quindi insomma piena esplosione punk. C'ha una seta, quindi in realtà vedi, siamo stati bravi perché ci siamo agganciati dai Ramones e non siamo andati in realtà così trovo tantissimo indietro. E volevo capire, sto cercando da un po' di scoprire dove è stato registrato esattamente questo, se sono più probabilmente sono più live registrati così. Se vuoi ti posso dare forse posso darti una mano, ma non lo so. Perché in realtà leggevo che era registrato dal settembre del 75 e poi una sessione nel settembre del 76, per cui sono più location, penso, più posti. Io volevo sapere dove, ma lo scoprirò. Intanto ci possiamo sentire la traccia. Qua leggo un Century Park East di Los Angeles, California. Ci sta. 1977. Esatto. Ci sta che quello fosse la location di un live all'aperto, suppongo, visto che di solito in California. Anche perché poi non è la pubblicazione, perché la pubblicazione è pubblicato a Londra Polydor, quindi questo Century Park East Los Angeles credo sia proprio la registrazione, il luogo, sì, di registrazione del live. Esatto, di Crosby e Nash. Per cui ci ascoltiamo intanto una traccia, giusto? Giusto. Che è? La prima. Direi, e visto il periodo. Sì, visto il periodo storico oscuro in cui viviamo. In cui stiamo trasmettendo. Veramente vivo in tempi bui e. Quando abbiamo letto il titolo di questa canzone, la scelta è stata sì. Quasi d'obbligo, direi. Sì. Ed è Immigration Man. Visto il periodo mi sembrava doveroso doverosa questa Immigration Man di Crosby Graham, e Nash. Sì, in realtà appunto il pezzo di Graham Nash ed è la prima appunto del primo. Anche perché fra tutte e due sono due grandissimi autori, sì. Non si sa quante canzoni hanno scritto per loro, ma anche tantissimo per altri, sì. sia loro appunto Crosby formazioni, che Nash, ma anche lo stesso Stills. Sì, poi sono conosciuti sempre, no, col progetto tutti insieme, ma in realtà hanno lavorato tantissimo sia da soli che scrivendo anche per altri. Mentre Neil Young, che come tutti sanno ha fatto una pletora veramente di canzoni, ma se le scriveva soprattutto per sé, anzi, direi più che altro per sé, invece Crosby e Nash, ma anche lo stesso Stephen Stills, appunto, scrivevano tantissimo anche per altri, quindi era proprio un lavoro per loro quello di scrivere canzoni, di essere appunto autori. Sì, esatto. Anche tantissimo per altri artisti, non solo per se stessi. E allora a questo punto farei partire questa Immigration Man di Crosby & Nash live appunto a Los Angeles del 1977, sempre qua a Basement Records, ovviamente su Radio Wombat. Partiva un'altra canzone essendo un concerto. Sì, esatto, infatti ci siamo un bellissima attimo. Questa versione di Immigration Man comunque. Molto bella, sì, veramente anche già, questa. Lo stile più classico dei due, eh. Bluesettona veramente appoggiata, bella, mi è piaciuta. Anche da questo daremo sicuramente poi altre, insomma, altre tracce più avanti nel tempo, perché insomma è un album che contiene veramente tantissimi, tantissimi pezzi molto belli e che leggevo appunto segue un altro loro album, sempre Crosby & Nash, che era Whistling Down the Wire del 76. Poi c'è appunto questo Crosby Nash Live del 77 e poi seguirà nel 78 The Best of Crosby & Nash. Quindi insomma, una bella tripletta, 76, 77, 78. Erano tempi, insomma, di produzioni così Prolifici, prolifiche e prolifici. notevoli, cioè anche la roba peggio a quei tempi era comunque meglio, nel dolore era comunque meglio. del peggio di adesso. Non so se si è capito cosa volevo dire. Facciamo i vecchi, però, dai. No, va bene, va bene. Però, insomma, forse avete capito cosa volevo dire. E qui direi che prima di andare avanti facciamo un po' d'annunci, perché oggi ancora non abbiamo detto niente. Non abbiamo detto niente, siamo veramente degli sciagurati. A parte l'appello per... Sì, a parte l'appello, portateci i vinili per favore, salvate Basement Records. Vogliamo fare una... Se no dopo ci bacchettano. Ci legano nella tana del Wombat e ci bacchettano. Va bene. E ricordiamo come sempre i nostri indirizzi per mettersi in contatto con noi. Ovviamente il nostro sito wombat.noblogs.org, sempre super aggiornato con tutte le novità della radio e non solo. Poi la nostra mail postawombat@insiberia.net, che voglio ricordare a chi appunto si vuole mettere in contatto con noi, è la via migliore, molto meglio che scriverci sui social, scriverci su questa mail se volete essere subito in contatto con noi. E ricordiamo anche i nostri canali social, visto che siamo nel 2017. Ma siamo moderni. Su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze, e ci troverete. E ovviamente per chi ci ascolta nell'area fiorentina, come non ricordare, come sentire anche Radio Wombat mentre andate in macchina sulle frequenze AM o a casa, dovete, insomma, mettere sulla radio, appunto, selezionare la frequenza in onde medie in AM, che sul quasi sempre funziona. Sì, no, ultimamente sì, funziona, ultimamente si sente andando anche parecchio meglio. Ce la fa, la sì, definizione tutti, dovete tutti selezionare i nostri tecnici che hanno sudato sangue per, ah, sì, per farla funzionare, ed è 13:59 in AM. In AM, non ve lo scordate, 13:59 per chi abita nell'area fiorentina. E quindi il nostro dovere l'abbiamo fatto, sì, per ricordare. Ci avete indirizzi. Sentito tutti, vero? Sì, vogliamo, l'abbiamo detto. Vogliamo ricordare anche un appuntamento che ci sarà, sì, nelle prossime, appuntamento. Un importantissimo appuntamento che ci sarà nelle prossime settimane, che riguarda Radio Wombat. Ci sarà la festa della radio. Esatto, il compleanno della radio Wombat. E ci sarà una grandissima festa al Next Emerson, se non mi sbaglio, vorrei non sbagliarmi, l'8 di dicembre, ancora insomma il calendario, così deve definirsi un po' il programma, però già vi possiamo dire che il famoso TBC, sì, che esatto. Non è tubercolosi, ma è to be confirmed, va. Intanto vi possiamo così buttare lì una serie di, appunto, di cose che ci saranno. Ovviamente ogni trasmissione, insomma molte delle trasmissioni che insomma abitualmente seguite su Radio Wombat avrà un suo spazio, quindi allestirà così un suo spazio in vari modi, tutti da scoprire. Quindi spazio ad ogni trasmissione. In più ci saranno dei live electronics, anche quelli di artisti così di Radio Wombat. In più ci saranno un live degli Ivanovska, il gruppo già ve lo possiamo dire perché è confermato. E insomma, per gli orari e per il resto della programmazione vi invitiamo a consultare, a breve uscirà sia il sito di The Next Emerson, sia volantini cartacei che tappezzeranno la città nei prossimi giorni. Anche sul sito della radio, chiaramente. Il sito della radio, ovviamente, in cui ci sarà tutto Wombat il programma. Partecipate numerosi a questo compleanno, ecco, che si spera sia venite così a festeggiare con noi, giustamente. Esatto, io spero nella torta, ci sarà, chissà, sto sperando nella torta. Venite a spengere le candeline con il compleanno Wombat. Senza torta, che compleanno non vengo, è? Ve lo dico ora, se non mi fate la torta non mi ma uscirà il Wombat dalla torta, speriamo, vestito da Marilyn, bellissimo come sarebbe. Bene, quindi tanti auguri al Wombat tra un po', e noi invece proseguiamo con un, così concludiamo la puntata con veramente Non si sa se si conclude la puntata. Vabbè, intanto però andiamo a c'ha l'ansia della separazione, non vuole mai finire lui, perché poi si sente male, gli dispiace. Sono già le palpitazioni. Sì, lui è un ragazzo, si emoziona. E vi voglio invece appunto andare a introdurre quello che, vabbè, veramente questa volta abbiamo così tirato fuori proprio il super pezzone da 90 dal cappello, appunto, che ed è un album idolatrare, direi. Sì, vabbè, infatti è già in ginocchio sui ceci qui il nostro Dalai Lama, ed è Smash Hit, la prima raccolta di successi della Jimi Hendrix Experience. Cioè, pubblicata quando lui era ancora in vita, quindi ecco, insomma, raro, perché di solito sono tutti postumi. Invece fu pubblicata nel 68 nel Regno Unito e nel 69 negli Stati Uniti. Perché quindi già... dalla Track Record, il produttore era Chess Chandler, e veramente vanta quelle che fino a quel momento erano le sue più note. Sì, diciamo un greatest hits della prima incarnazione della sua band, ovvero dell'Experience, perché poi di lì a poco, negli ultimi anni della sua carriera e della sua vita, infatti suonerà poi con la seconda incarnazione della sua band, ovvero con la Band of Gypsies. Esatto. Ma questi sono i leggendari Experience, la prima band, la storica band di Jimi Hendrix, di tutti i suoi primi grandi successi, e sarà bene ricordarli chi erano gli Experience, questi altri due. Che sì, formazione a tre, ovviamente, con Jimi Hendrix, non ve lo sto neanche a dire, o chiaramente alla chitarra, in realtà poi anche voce, basso e batteria e pianoforte. Sì, tanto sapeva suonare un po' di tutto. Mitch Mitchell alla batteria e Noel Redding al basso. Sarebbe esatto. Bene sempre rendere merito, sì, veramente, perché sennò uno dice a sempre coloro che spesso e volentieri erano oscurati dalla gigante ombra e personalità di quello che è non so nemmeno come definirlo, perché io ci sono cresciuto cresciuto con Jimi Hendrix, come usavano al posto della ninna nanna, non so se gli effetti forse sono stati positivi forse o negativi, bisognerebbe parlare degli effetti, ma diciamo, sorvolando sugli effetti che hanno influito appunto sul nostro qui, direi che la versione inglese dell'album presentava insomma numerosissime note tracce, tra cui Purple Haze, Fire, The Wind Cries Mary, Can You See Me, Hey Joe, A Manic Depression, A Gray Child, Burning of the Midnight Lamp, Foxy Lady. La versione USA aveva qualche differenza in alcune tracce, diversi, sì, c'aveva Stone Free e Crust on Traffic, per esempio, ecco, Stone Free c'era anche nella versione inglese, però per esempio non c'era appunto, insomma, non c'era Crust on Traffic in quella inglese, c'era in quella USA, insomma, vabbè, c'erano delle piccole differenze, anche proprio nella scaletta. Che dire, che l'album precedente era Axis, Bold as Love del 67, e l'album che segue questo invece è Electric Ladyland, sarà Electric Ladyland del 68. Mamma mia. Eh sì. Quindi io direi che senza ulteriori, veramente, cioè, mi rifiuto veramente di presentare Hendrix, veramente mi rifiuto, per cui proseguirei con la traccia che abbiamo scelto, giusto? Certo, che ho scelto per voi. Ho scelto Maniac Depression. Esatto, in cui io mi rivedo veramente in questo momento. Ma in diversi ci si rivede. Io mi rivedo veramente fortemente, quindi come sempre la musica parla meglio di noi e per noi. E allora sentiamoci Jimi Hendrix con i suoi Experience in uno dei suoi grandi classici, Maniac Depression, a Basement Records, Radio Wombat. Estasi pura proprio, eh? Sì. Sono qui quasi con gli occhi ribaltati. qui in trance. Bene, sì, direi che proseguiamo sempre da questo album con un altro pezzo. No, anche perché se non se ne mette due di Hendrix, veramente no, prende e vado via, eh? Almeno due li vuole, l'ha voluti, sennò minimo sindacale, poi se ne darà da un greatest hits, cioè che fai, non ne mette almeno due, ci mancherebbe, si dovrebbero mettere tutte di fila una, esatto, dietro quell'altra. Lo so, questo è il suo stile radiofonico, certo, dargli il via e far andare. Se no, come fai a far durare le trasmissioni 2 ore e mezza per la gioia degli ascoltatori? Sì, va bene, quindi il prossimo brano, appunto, che abbiamo scelto da questo Greatest Hits è Fire, e che è un brano del 69, e vabbè, ok, anche questo non ha veramente classico, rifatto da tutti, tra cui leggevo anche i Red Hot Chili Peppers nell'88, pensa te, l'hanno rifatto, quindi veramente rifatto veramente da tuttissimi, in questo caso appunto tutto è inserito in questo Greatest Hits, ma in realtà appunto apparteneva a Rio Experience del 67, quindi esatto, apparteneva a quest'altro. Il giro di chitarra iniziale di Jimmy viene seguito serratamente poi dalla batteria di Mitch Mitchell, e appunto è un brano che parla così di sessualità con protagonisti Hendrix e un'ipotetica ragazza, e anche se in realtà, esatto, anche se in realtà la genesi di questa canzone, leggevo, è molto più innocua e quantomeno curiosa, perché tutto iniziò quando la band, in una fredda notte di dicembre, voleva andare a pescare, mi sa, immagino, sotto l'effetto di cosa, e situazione abbastanza paradossale, ma nessuno aveva degli avrei ami. Voluto essere lì per vedere cosa prendevano. Non se ne fece di nulla, e al bassista Noel Redding venne l'idea di ospitare Hendrix a casa della madre. Arrivato a casa, Jim chiese alla madre di Noel se poteva fermarsi nel suo posto infuocato. Lei rispose di sì, ma il suo cane, un alano Rover, che era in strada, che appunto era in strada, stava per entrare nella casa. Da qui ebbe origine una frase del testo della canzone: "Oh, move over, Rover, and let Jimmy take over." Quindi, Jimmy, insomma, capito? Parlavano del cane, si doveva spostare e far entrare. Quindi diciamo, è meno pruriginosa di quello che si pensa, poi la genesi, come spesso succede, delle sì, canzoni. Ma che poi nelle mani e nella voce di Jimmy diventa completamente, ovviamente, è totalmente un'altra cosa, ovviamente, estremamente più pruriginosa, direi. Vabbè, certo, se no è l'artista a che serve. Quindi proseguiamo con l'ascolto di questa Fire, appunto tratta da questo hit. Questo smash hits di Jimi Hendrix Experience, ovviamente sempre a Basement Records, ovviamente, sulle frequenze di Radio Wombat. Stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Oh, let me stand. Let me stand next to your fire. Oh. I'll move over, Rover, and let Jimmy take over. Mamma mia. E vabbè. Aiuto. Sì, era veramente un pezzoni che c'è. Da super. Anche oggi abbiamo avuto veramente dei super album. E direi che proseguiremo quindi la nostra prossima puntata, quindi a settimane alterne, quindi non la prossima, quella dopo, giusto? Sì, sì, se tutto va secondo i piani. Non ci succede disastri come ci succede di solito. Per cui io direi che possiamo fare anche i saluti. Dici? Sì, possiamo fare dei saluti. O lei non vuole nemmeno salutare il pubblico. Sì, è proprio così, è diventato veramente una star. Ovviamente volevo salutare il pubblico, però stavo pensando... Volevo lasciare con un pezzo. Stavo pensando di salutarli con un pezzo. Sì, qui c'è il nostro guest album, che è l'album della Nenia, lasciato qui per noi, che ci riserva delle perle notevoli. Perché... Che è un po' come grattare sulla lavagna dopo hai sentito Chopin. Sì, no, cioè, ma fa appunto, quell'effetto ma lì. Per non prenderci troppo sul sia serio. Sia mai che ci prendiamo troppo sul serio. E, appunto, cioè io... C'è una premessa emozionato, da fare. Emozionato. Perché mentre ero qua che stavo aspettando e stavo sollazzando le mie orecchie appunto ascoltando questo vinile che ci ha gentilmente lasciato in custodia la nostra amata Nenia, ho scoperto un paio di pepite nascoste nel lato B di questo disco della Baby Records, di questo mixage, che però l'unico problema di questo disco è che non si riconoscono davvero le tracce che separano una traccia dall'altra, sembra tutto un solco più o meno unico, non so... Quindi è un po' la busta delle sorprese, cioè quello che metti viene... Però ho scovato questi due pezzi che sono secondo me meravigliosi, anche solo per scoprire un lato della musica degli anni Ottanta. Cioè, pensate che comunque l'etichetta è la Baby Records e in puro stile Nenia, anche sì, se veramente molti stiloso. Lo potrebbero chiamare trash music, secondo ora, me in mezzo è dove è diventata trash music? In mezzo a questa trash music, che poi non è neanche una definizione che mi piace più di tanto, delle perle si scovano e volevo farvi sentire... Se proprio si volesse esagerare, addirittura due pezzi. Vabbè, oggi proprio senza freni, stia calmo, per favore. Mi sembra che si sia fatto prendere un po' la mano. Mi sto allargando, lo so, me ne rendo conto. Soprattutto perché appunto non si riesce a beccare la traccia, quindi si però insomma farò del mio meglio, anche perché non essendoci il preascolto in cuffia devo andare un po' a sentimento del solco. Va bene, ma intanto ci possiamo salutare e poi sì, lei sì, mette no, i pezzoni. Saluta pure nel frattempo, fai tutte, la curva. Io intanto mi studio bene. Allora intanto va bene, intanto vi saluto, vi do appuntamento appunto come vi dicevo al compleanno del Wombat l'8 dicembre al Next Emerson. Vi aspettiamo numerosi, tutti i fan di Radio Wombat e quelli che magari poi lo diventeranno. Ricchi premi e cotillon per il programma, insomma più specifico vi invito nei prossimi giorni a controllare i nostri social network, sia della radio sia del Next Emerson, dove si svolgerà la serata. E invece per quanto riguarda Basement Record ci diamo appuntamento appunto tra due settimane, tranne varie ed eventuali. La prossima settimana invece con l'altro programma così del nostro artista, del nostro local hero qui. Bene. Artista in molti quartieri viene usato con un'accezione un po' diversa. Che suona artista. Oh, artista! Suona così. Infatti io così lo intendevo. No, la Banksy, lo so che lei sperava, invece io lo intendevo proprio così, con l'accento. Che è quello che fa finta di fare qualcosa, ma invece esatto. Non fa niente. Esatto. Oh, artista! Artista. E direi che questa è, diciamo, una descrizione calzante, non per lei, che in realtà è un working class hero. Direi che mi alza abbastanza più a me bene. Che a lei, lei mi sembra più concreto. Quindi il nostro nel artista senso della slash musica concreta, ma ovvio, soprattutto nel senso della musica concreta. E con la sua trasmissione, che vabbè, non sto neanche a nominare, perché veramente, se non la conoscete, mal vi incolga. Se non la conoscete è solo perché avete voluto preservare, insomma. Se non la conoscete vi manca veramente un sacco di cose, vi manca un sacco di nozioni. Va bene, quindi vi salutiamo e vi lasciamo così a questo angolo di trash, regalatoci, no, gentilmente. Non diciamo così, no, non è vero, no, che è un angolo, ma non di è trash, negativo, è un angolo di anni 80. Poi la dai, trash non è solo negativa. È stato così, l'accezione prende un'accezione negativa, ma io lo dico in senso così veramente neutro. Bene, vi saluto e alla prossima puntata di Basement Record, sempre su Radio Wombat. Che non si vedevano i soldi, è questa quella che volevo mettere. Slappino, yeah! Buona, io vado. Danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vega, c'est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, le poseur, les voyeurs, tous ceux qui aiment se faire voir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas la play. Mais dis-moi, Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quel indoor star. On me dit tout ça, y'a nous, y'a moi. Don't get me, I got to be. Vers sur verre de Cuba Libre. Don't forget me, I got to be. Vers sur verre de Cuba Libre. Got to be, hey, that's me. Yes, let's go, we don't stop. So come on, come on, let's see what's up. Give me some more. You know I need your love and leave me thus for sure. One, two. ora se no dopo ne facevo sentire troppe, visto che la Virgine è andata via, ma non è vero, perché è sempre qua che mi controlla e mi stava bacchettando perché me ne stavo facendo sentire troppe. Però non potevo farvi sentire queste due gemme, che erano la prima, Paris Latino di Esperanto, un pezzone classico degli anni 80, e questa seconda, bellissima tra l'altro, secondo me, con un tiro esagerato, e prima che arrivasse la Virgine ero lì che me la mixavo con un piatto solo e gli cambiavo le varie equalizzazioni, e viene bellissima. E questa era 1, 2, 3, 4, Give Me Some More di DD Sound, e con questa davvero adesso abbiamo concluso. Ho messo anche dei pezzi in più senza dirla a nessuno, o quasi, ma adesso è davvero arrivato il momento di lasciarvi al vostro sabato sera e darvi appuntamento con la prossima diretta di Radio Wombat, che sarà domani, domenica, con la Fuga del Gatto, con la trasmissione di Wombat sulla musica classica, per farci riprendere dalle fatiche del fine settimana. E allora un abbraccio, un bacione a tutti, buon sabato sera qui da Radio Wombat, e ci sentiamo settimana prossima. Wombat!